Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Apre a divorziati, coppie di fatto e gay. Queste le indicazioni messe a punto nel documento in vista del sinodo. Tutti i dettagli con Stefania Cavallaro. Sì, Stefania, e il documento si chiama Instrumentum Laboris, è stato realizzato proprio in vista del sinodo sulla famiglia, fortemente voluto da Papa Francesco per il prossimo 4 ottobre, in cui per quel che riguarda le coppie omosessuali si dichiara che ogni persona, testuale, indipendentemente dalla propria tendenza sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta nella Chiesa. Sempre nel documento invece, per quel che riguarda i divorziati, si legge che la Chiesa deve prendersi cura delle famiglie che definisce ferite, cioè separati, divorziati e risposati, e far sperimentare loro l'infinita misericordia di Dio. Resta però il questa fermo, mattina no? Non voglio parlare di divorziati, non cominciate a chiamare se il vostro problema è quello legato allo scioglimento del matrimonio. No, voglio proporre all'attenzione dei miei ascoltatori, e tra di loro c'è anche un buon padre spirituale, si prenda cura della mia anima, un mio dubbio, un mio profondo e cocente dubbio. Di fronte alla frase «l'ha detto il Papa», cosa rimane nella nostra memoria individuale? Diciamolo con grande sincerità, non trinceriamoci dietro le prese di posizioni ideologiche apparenti, di appartenenza, per cui non so, i giornali di destra difendono la bestialità detta dal fondatore dei neocatecumenali, che se una donna scappa con un'altra donna il marito ha quasi giustificabile, se poi la massacra, la ammazza, e allora immediatamente chi dice che questa è una rozzaggine di sinistra, invece lo difende di destra. No, liberiamoci un attimo da tutti gli orpelli e fermiamoci alla frase «l'ha detto il Papa». Devo dire, sono un po' in imbarazzo, perché io da 30 anni ogni giorno comunque ho un microfono della radio, vuoi come inviato, vuoi come subalterno, vuoi come protagonista, tratto un argomento di attualità, quindi ho attraversato parecchia attualità, parecchia cronaca, quindi ho memoria di vicende che hanno interessato il nostro paese negli ultimi 30 anni. Ma se io seleziono questa mia memoria rispetto alle frasi epiche dette da alcuni papi, beh, ho un momento di difficoltà, perché nonostante tutto quello che è stato detto, scritto, immaginato, i travolgimenti epocali, quello che ha attraversato, io dei papi passati ricordo soltanto pochissime cose, o perlomeno ho tanti ricordi, ma all'apice di tutti i ricordi sono soltanto delle frasi, frasi lapidare e concise. Comincio dal papa più arretrato che io mi ricordi nella mia memoria, Giovanni XXIII, il papa buono. Cosa ricordo al papa buono? Se mi mettono improvvisamente uno e fa la domanda fulminante del papa buono, cosa ricordi? Io ricordo questo. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del papa. Troverete qualche lacrima. Del papa buono io ricordo la carezza ai bambini. Voi direte, infame, reprobo, brucerai nelle fiamme dell'inferno come un papa che ha fatto il concilio. Sì, ma io mi ricordo questo, l'ho classificato con questo. Perché? Perché sono un normale battezzato, sposato, comunicato, cresimato, praticante disattento, forse nemmeno più praticante. Insomma, sono nella media, penso. Vedo ogni giorno frotte di persone che vanno a San Pietro a vedere i papi, però io di questo papa mi ricordo questo, non mi ricordo altro. Questo mi è rimasto in memoria. Andando avanti, Paolo VI, il papa del dubbio, il papa che ha attraversato gli anni di piombo. Cosa mi rimane a me di Paolo VI? Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse, restituite alla libertà, alla sua famiglia, alla vita civile, l'onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco e non ho modo di avere alcun contatto. Io questo ricordo. Il giorno che io dovessi schiattare, se mi vedo tutta la mia vita in rapida successione, come dicono che accada, alla voce papi di Paolo VI, ricordo questo, il discorso sulle Brigate Rosse, un papa che cita le Brigate Rosse. Sarà un mio limite, sarà una mia malversazione. Non ricordo altro, nella mia memoria individuale, in quello che per me è il flusso della storia della Chiesa, non rimane altro. Andiamo avanti. Papa veloce, fuggevole, transeunte, Albino Luciani. Che mi ricordo di Albino Luciani nei pochissimi mesi del suo pontificato? Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. È papà, più ancora, è madre. poveraccio, un papa sfortunato, bravissimo, stava mettendo le mani nelle mucillaggini vergognose dello Ior. Qualcuno dice che l'hanno ammazzato, può anche essere, l'hanno sempre negato. Poi mi ricordo che disse che Dio era mamma. Mi ricordo ancora la vignetta di Forattini di Dio con le tette. Ecco, una cosa, questo mi ricordo. Poverino, un papa che in potenza poteva essere tanto, durato poco, mi ricordo la frase Dio è mamma. Andiamo al papa più importante, Papa Wojtyła. Papa Wojtyła l'ho seguito passo per passo nella sua fase in cui da papa era stato trasformato in un santino digitale, frotte di persone sotto casa mia che andavano a vedere questa salma esposta, tutti a prendersi la reliquia digitale col telefonino. Ma se dovessi pensare una frase sulle altre che mi ricordo di Papa Wojtyła, non ha nulla a che fare col suo pontificato. Ioannis Pauli. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. Mi ricordo questo, se mi sbaglio mi corrigerete. Ci abbiamo scherzato, riso, intanto passava la storia, cadeva il muro, succedevano cose fantastiche, i viaggi del Papa, tutte queste cose qua. Però io mi ricordo questo, è un problema mio. Concludo l'escursus, Papa Ratzinger, niente, buio totale, non ricordo nulla, non mi è rimasto niente, le babbucce rosse probabilmente, il cappellone, le marchese contesse che gli scodinzolavano attorno, questa bellissima immagine con l'elicottero che sembrava presa da Dan Brown, il Papa che si allontana sull'elicottero, lasciandosi alle spalle il cupolone di San Pietro lungo il Tevere, le anse del Tevere, poi riappare dopo una settimana insieme all'altro Papa, prega assieme, non mi è rimasto niente. E del Papa attuale? Il Papa attuale ho un overdose di dichiarazioni, ho troppe cose e penso che è difficile che me ne rimanga qualcosa impresso. Un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. Il denaro corrompe e questo non è comunismo, questo è Vangelo puro. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Quando si dice di una persona che ha la lingua di serpente, cosa si vuol dire? Che le sue parole uccidono. Uomini e donne vengono sacrificati all'idolo del profitto e del consumo. È la cultura dello scarto. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza. 800 24 00 24, che mi serve a questo punto il conforto degli ascoltatori. Cosa viene in mente a voi quando si dice l'ha detto il Papa? Qual è l'impressione nell'essere umano medio? Io abito a Roma, Roma è una città molto particolare, l'Italia è un paese molto particolare in cui i giornali aprono con dichiarazioni del Papa, al di là delle Alpi secondo me non gliene può importare molto a nessuno, perlomeno generalizzato, se non alle persone che vivono concretamente, radicalmente, visceralmente una vita cristiana, per cui il Papa è realmente il tramite con l'assoluto e quindi quello che dice è degno di massima attenzione, non parla sempre ex cathedra Petri, quindi può dire anche ogni tanto qualche banalità, e ne dice molte di banalità, ma le dice anche perché in fondo oltre Papa è anche un essere umano. Ma in questo momento in cui tutti ci beiamo, ne abbiamo parlato a lungo, del Papa mediatico, del Papa vicino alle persone, del Papa che dice tante cose, cosa ci rimane a noi di quello che dice il Papa? L'ultima dichiarazione, il Papa alle donne, dovete lasciare i mariti violenti, nel caso che il marito vi mena e vi massacra di botte è anche giusto che lo lasciate. Apertura di giornali, ma mi sembra una grandissima banalità, chi mai ha pensato di sostenere il contrario? O se qualcuno ha sostenuto il contrario, con quale perversamente ha potuto dire a una donna continua a rimanere con l'uomo che ti massacra di botte, poi alla fine c'è anche caso che ci rimani secca. Pongo questo problema perché vorrei capire veramente, ma in questo mi dovreste confortare, qualcuno dovrebbe chiamarmi e dirmi no, ti sbagli, per me è stato qualcosa di profondamente, radicalmente trasmutatorio, perché ho un po' l'impressione che oggi anche la professione di fede sia diventato un fatto politico. Oggi penso che migliaia di persone vengono portate con i pullman, vengono convogliate alle parrocchie, vengono messe insieme, vanno tutti a San Pietro, ultimamente c'è stata anche un una sorta di associazione che ha portato dei ragazzi disabili, uno se ne sono perso, ancora lo cercano per Roma, non sanno che fine ha fatto. Lo portavano a vedere il Papa, un ragazzo che aveva pochissime capacità di comprendere realmente quale sarebbe stato il senso profondo di quello che lui avrebbe detto il Papa. Ancora un senso dire l'ha detto il Papa, come una volta si diceva sono parole scritte in lettere di fuoco nella nostra coscienza. Un Papa che dice troppo, che parla tanto, che ogni giorno dice le cose anche giuste, anche sagge, ma sono le cose che magari normalmente attraversano la società civile 30 anni fa, 20 anni fa. Chi sono io per giudicare i gay? Vabbè, ma normalmente la gente questo pensiero l'ha fatto già da molto tempo, ma che lo dica il Papa è importante, perché è una presa di posizione, un'apertura. Ma l'essere sempre più aperti da parte di un Papa significa assimilare il Papa a una persona qualsiasi, quindi tranquillamente ascolto volentieri, con grande rispetto, con grande reverenza, con senso profondo per ciò che di sacro rappresenta un Papa, parlare un Papa come sento parlare una qualsiasi persona. Cosa c'è di trasmutatorio? E sui papi del passato, i papi che ancora non erano toccati da questa sorta di investitura di essere papa ipermediatici, ecco, perché mi rimangono a me soltanto queste scarne frasi, questi esempi così superficialmente legati a momenti emotivi? Per voi è la stessa cosa, o voi sono rimaste delle cose che veramente vi commuovono, vi fanno pensare? Questo voglio dire, ma lo dico con grande senso della mia limitatezza, lo dico sperando che qualcuno mi illumini e mi dica che esiste una maniera migliore per vivere anche la presenza di un Papa che ho anche molto vicino. Passo al traffico, poi spero di poter parlare con qualcuno. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Fratelli e sorelle, buonasera. Perché lei, cioè tu, hai rinunciato a tutte le ricchezze di un papa, come un appartamento lussuoso oppure una macchina enorme? Invece è andato in un piccolo appartamento nelle vicinanze. E non è soltanto una cosa di ricchezza, per me è un problema di personalità, no? Quello è. Io ho necessità di vivere fra la gente. Vabbè, quando sei il padrone di uno stato intero, quando c'hai chiese, monasteri, alberghi, tenute, cioè uno può anche andare a vivere nell'appartamentino, povero bambino, non so quanto tempo le maestre l'avranno istruito per dire questa frase al Papa: Papa, perché rinunciasti a tutto? Cioè, se non rinuncia a Satana e le sue pompe il Papa, chi dovrebbe rinunciare? Questo mi sembra logico, ma mi sento ancora preso sotto mira dagli ascoltatori, dicono ah, è scarsa memoria, però nessuno telefona, pochi parlano, c'è come una sorta di paura di doversi scoprire. Ma mica io ho messo in dubbio l'esistenza del Papa o il profondissimo valore spirituale della presenza di un Papa, né la fede religiosa, che è qualcosa di incommensurabile, ma il fatto che poi, vorrei capire, tra l'apparenza, fra la rappresentanza di uno status anche di pratica religiosa e l'essenza, che è la cosa più profondamente che rimane nella memoria. Nella memoria rimane quello che a me colpisce. Non mi scrivete, hai poca memoria, è una grandissima memoria, ricordo tantissime cose. Perché mi rimangono impresse soltanto queste 4-5 cose, del tutto poi indifferenti rispetto a un valore spirituale trasmutatore? 800240024. Enzo, buongiorno. Enzo è caduto, era il primo coraggioso, è caduto. Arianna. Pronto, buongiorno a tutti. Sì. Allora, sicuramente no, vediamo se non mi debba sentire. Che volevo dirle che mi ha emozionato tantissimo sentire ancora il Papa Wojtyła, perché è fantastico. Sì, ma se va su YouTube lo può sentire anche tutti i giorni, l'abbiamo preso da YouTube questa frase. Sì, sì, comunque quello che volevo dire io era che il Papa lo ascoltano poco anche i preti, perché comunque sia lui ha detto quella frase che le donne possono lasciare il marito quando vengono maltrattate. Ecco, io ho un esempio proprio lampante di una mia amica che è stata abbandonata dalla sua parrocchia perché ha lasciato suo marito, che la menava, proprio perché lui la menava, e lei l'ha lasciato e la sua parrocchia l'ha proprio abbandonata. Poi lui dice chi sono io per giudicare gli omosessuali, eppure in chiesa io le assicuro che se c'è un omosessuale proprio di quelli evidenti, il prete non gli fa la comunione. Un bambino nato fuori, magari la fa dopo in privato, lo convoca dopo. Un bambino, mi ha detto l'ultima cosa? Un bambino nato al di fuori del matrimonio non gli fanno il battesimo. Quindi sono loro i primi a non accettare. Beh, questo mi sembra madornale, nato fuori matrimonio. I bambini li battezzano tutti, adesso non so dove accada. No, non li battezzano tutti. Gli dico, tu non sei nato dentro un matrimonio? Ma dai, questo non l'ho mai sentito dire, onestamente. No, io posso assicurare che il bambino nato al di fuori dal matrimonio oppure da una convivenza non viene battezzato. Vabbè, avrà avuto le sue prove. A me non risulta, un'infinità di amici non sposati con i figli battezzati. È un diritto battezzare un bambino. Andiamo avanti, Enzo. Il suo punto di vista, però non mi ha detto come la pensa lei, mi ha detto come dovrebbe essere. Si parla sempre degli altri, i preti indegni, ma lasciate perdere i preti, pensate a voi. Enzo. Buongiorno. Eccomi. Buongiorno, io volevo fare una riflessione sul fatto che lei diceva non so cosa mi lascerà. Sono d'accordo anch'io. Papa Francesco ha fatto talmente tante uscite forti, come diceva lei, che è quasi un overdose. Però io penso che forse dentro di me, io premetto che non sono credente, ma ad esempio sono cresciuto con un'educazione cattolica, da piccolo frequentavo la CR, l'Azione Cattolica, e ho ricordo con tenerezza e con affetto parecchi parroci di questo paesino di 2000 anime, non di 2000 persone, non molto grande, che hanno, penso abbiano segnato la mia però infanzia, Enzo, e mi hanno, il tema hanno è fatto crescere in maniera... Questo siamo d'accordissimo, la maggior parte degli italiani è nato in un humus, in un ambiente comunque confessionale, poi uno può aver preso le sue distanze, o per vissuto intensamente, o fare finte, dicendo. È un po' diverso, io non metto in crisi o in dubbio il fatto che possa esistere una professione di fede, vorrei capire, proprio la parola l'ha detto il Papa, cosa lascia nella vostra memoria e cosa... Probabilmente, se voi appartenete a coloro per cui il Papa è veramente un capo spirituale, cosa ha mutato e cambiato nella vostra vita realmente? O è semplicemente come ascoltare il discorso del Presidente della Repubblica l'ultimo giorno dell'anno? Che sì, lo ascolti, ma sai che è un discorso che hanno scritto altre persone e te lo senti mentre sta bollendo il tacchino nella pentola. Leonardo, buongiorno. Buongiorno, salve. L'ascolto. Sì, ma io credo, guardi, le parlo da cattolico praticante, quasi papista direi. Oh, per fortuna, perché sennò sembra sempre che io faccio dei discorsi che tendono sottilmente, maleficamente alla distruzione. Non è lei ha capito il senso delle mie parole, spero. Sì, potrebbe essere. Comunque io parto da un presupposto per un credente. Lo Spirito Santo ci manda il Papa giusto al momento giusto. Quindi la figura del pontefice, massimo rispetto e sempre assoluta ossequio all'autorità. Non ci piove, esattamente l'atteggiamento di un credente. Lei ha detto esattamente questo, sì. Però è vero anche che il Papa è il pontefice, colui che sta tra Dio e la terra e noi uomini. Fa il ponte. Rappresenta la figura di Cristo, la sacralità. Bisogna starci attenti a togliere anche quegli elementi umani che possono farci percepire questa sacralità della figura del pontefice, perché si rischia veramente di svilirlo e di farlo diventare uno dei tanti leader, un leader politico, un capo. Ma allora scusi, dovrebbe tornare con il camauro in testa, sulla sedia gestatoria, con i valletti, parlare soltanto per dire cose eccelse, non dovrebbe dire do il papagno se uno mi offende la madre. Ecco, si può magari ripulire un po' di cose che sembrano proprio fuori del tempo, però una bella stola, magari anche fatta 50 anni fa, per cui non bisogna spendere nuovi soldi per comprarla. Lei ha una visione che riporta, diciamo, anche ai segni esteriori giusti, alle liturgie che confermano comunque l'eccellenza del messaggio spirituale. Un punto di vista comprensibile e senz'altro l'ho ascoltato. Paola. Buongiorno, io volevo dire qualcosa di diverso, non cosa ha detto il Papa, perché stava zitto, ma cosa ha fatto. Sto parlando di Paolo VI, che è stato il primo Papa a viaggiare, perché tutti si ricordano i viaggi di Wojtyła, ma Paolo VI, tra le altre cose, è andato negli Stati Uniti. E il pover'uomo è finito pure in una riserva indiana dove gli hanno messo in testa un trionfo di penne. Eh sì, infatti è una delle immagini più ridicole di un papa che abbia mai visto, se lei mi permette. Ecco, lei me l'ha ricordata adesso. Ci ho riso tanto da ragazzino. Il papa con le penne e la pelle rossa in testa, in effetti, e non era proprio manco Montini la persona adatta a scherzare con le penne in testa. Comunque, io ho detto quello che devo dire. Fatene l'uso che volete. Alla prossima.